Thank you.

Ombre spavite, quieto fior del mio a penetra s'avanza. E re di gloria, e re possente fate, che resiste nel muo e la tua possanza. Si parli di chi penso, or ho già molte spinto, negando ancor il mio poter l'ha vinto. Come cieco ti inganni e non t'avvedi che se morì chiedei la vita autore, ma fu per opra tua. Ma tu d'amore Gli anelli ti accel, muove la guerra.